come palta sugli occhi. Il petrolio incontra l'olfatto e gira tutto al contrario. Se è vero che non siamo critici sul salario, allora perché non va tutto a fondo? Non sono attento alle politiche del paese, è solo rabbia che nessuno accoglie. Come sassi negli occhi, l'ammoniaca incontra la gola e gira sempre tutto al contrario. Se è vero che non siamo manifestanti seri, allora perché nessuno sente freddo? Non sono un dottore per curare la politica invalidante, è solo rabbia che nessuno accoglie. La la.